pianto tutta la sera, però non ti ho detto niente. A cena verrò con le mitragliette, con te era veleno cioccolato fondente. Dipende, le stelle cosa dicono. Pianto tutta la sera, però non ti ho detto niente. A cena verrò con le mitragliette, con te era veleno cioccolato fondente. Dipende, e mi hai lasciato un segno sul fegato con le lamette. Poi dormi da me la settimana seguente, con te una cretina si innamora e si pente. Dipende, le stelle cosa dicono. Sarà una notte lunga, un putiferio. Santa, da che cosa dipende? Fuori dal letto, nessuna pietà. Solita scena, tragicomica. Come ci vedi nell'insieme? Direi che in generale mi sento poco bene. Forse perché il tuo bicchiere è solo il terzo e anche il mio. Uomo senza dignità, mi ha insultato. Ho pianto tutta la sera, però non ti ho detto niente. A cena verrò con le mitragliette, con te era veleno cioccolato fondente. Dipende, e mi hai lasciato un segno sul fegato con le lamette. Poi dormi da me la settimana seguente, con te una cretina si innamora e si pente. Dipende, le stelle cosa dicono. Sarà una notte lunga, un putiferio. Santa, da che cosa dipende? Uomo senza dignità, mi hai chiamata amore, ma è successo in un momento di follia. Ho pianto tutta la sera, però non ti ho detto niente. A cena verrò con le mitragliette, con te era veleno cioccolato fondente. Dipende, le stelle cosa dicono. Un putiferio, e me la ballo nuda. Volente, nolente, essere una santa, da che cosa?